Buonasera ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, siete ancora sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche ed è la trasmissione Mini Pimer, che questa sera avrà un approfondimento sul 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza degli uomini sulle donne, e partiamo un po' dalle origini, dal perché di questo 25 novembre, parlando della vicenda delle sorelle Mirabal. Appunto l'occasione, una di noi, Elena, in un viaggio, di incontrare l'unica sopravvissuta delle quattro sorelle, Dedé Mirabal. Gli hai strappato questa intervista che a noi è piaciuta, anche fosse solo come testimonianza, insomma, della sua vita, della sua esistenza, e quindi questa trasmissione è finalizzata anche a farvi sentire questo quarto d'ora di Dedé Mirabal, che vive attualmente in Repubblica Dominicana. Sì, diciamo che ho avuto questa fortuna, e anzi, insomma, facciamo una cosa molto radiofonica, anche ringraziamenti, visto che credo che ci stia ascoltando in questo momento, insomma, Graziella, che è una compagna di Bologna e che mi ha portato a conoscere Dedé Mirabal, ha portato queste amiche, sempre. Diciamo che eravamo là in tre, io, Monica, Lourdes e Graziella, e diciamo la conoscenza che Dedé ha con Lourdes, che è una donna nicaragüense che vive in Repubblica Dominicana, e Graziella le ha dato, come dire, la fiducia per poter accogliere anche noi e lasciarci questa intervista. Insomma, una donna molto anziana che ha passato una vita molto dura, e quindi un minimo di garanzie, insomma, certo, erano necessarie. E appunto Dedé Mirabal è una donna che è del 25, quindi insomma 88 anni. E cerchiamo anche un po' di contestualizzare questa vicenda delle sorelle Mirabal, che poi diciamo che sono state uccise dalla dittatura di Trujillo nel 1960, e che poi nel 1998 le Nazioni Unite hanno deciso di utilizzare questa data del loro omicidio come giornata mondiale contro la violenza degli uomini sulle donne, diciamo raccogliendo una proposta che già veniva dal movimento femminista e lesbico latinoamericano, dalla conferenza dell'81, addirittura dell'incontro continentale delle femministe e lesbiche dell'81, in cui era stata fatta questa proposta. 15 anni dopo è diventata, ha avuto una veste istituzionale, è diventata quella che poi è arrivata anche da noi, insomma, il 25 novembre. Però vediamo appunto l'origine effettivamente in queste... Sì, resistenza coraggiosa, insomma. Sì, cerchiamo di un minimo di contestualizzare questa esperienza. Parliamo della Repubblica Dominicana, che, come insomma sa chi ci ascolta, è un'isola dei Caraibi, cioè è uno stato di un'isola dei Caraibi che è divisa in due tra Haiti e Repubblica Dominicana, e la Repubblica Dominicana ha subito una terribile e lunghissima dittatura che è durata appunto dal 1930 al 1961, con poi una coda di altri 35 anni, sì, fino al 96, che andremo poi insomma a capire un po' meglio come è andata questa vicenda. La dittatura di Trujillo, appunto. Trujillo prese il potere nel 30. Si tratta di una dittatura fin dall'inizio fortemente appoggiata dagli Stati Uniti, appoggio degli Stati Uniti, che sostanzialmente tiene al potere Trujillo per tutto questo tempo. Una di quelle dittature pensate appunto per l'esproprio delle ricchezze del Centro America e del Latin America, e poi anche in una seconda fase come dispositivo anticomunista, anticastrista, eccetera. E la dittatura appunto era fortemente sostenuta dagli Stati Uniti e dalla Chiesa Cattolica, che è stata presentissima in questa dittatura fino alla fine. La dittatura di Trujillo si è caratterizzata anche per un fortissimo antifemminismo e per un fortissimo razzismo al contempo. Trujillo, lui e anche il suo figlio maggiore si sono macchiati di terribili atti contro le donne. Il figlio per fare alcuni casi, insomma, pare che girasse per la capitale Santo Domingo con un gruppo, un branco di amici suoi, e a loro dobbiamo molti stupri e anche omicidi di ragazze che venivano stuprate in gruppo, lasciate per strada poi a morire. Questa cosa era talmente, a un certo punto è diventata così scottante, diciamo, anche per la dittatura, che lo stesso Trujillo, che pure si macchiava di reati del tutto analoghi, ha dovuto allontanare il figlio dall'isola. Sottolineo che il figlio negli anni 60 era un personaggio del jet set hollywoodiano, comunque, nonostante questo, Ramfis Trujillo. Il legame del resto Hollywood. Sì. L'altro, appunto, l'altro aspetto è un fortissimo razzismo nei confronti dei neri e delle nere, quindi degli haitiani e delle haitiane su quell'isola. L'atto più efferato che è stato compiuto per mano del dittatore è stata una strage di 30.000 haitiani e haitiane compiute nel 37 da Trujillo, appunto, che voleva rendere bianca l'isola. Era talmente un pallino questo del dittatore domenicano che accoglieva sull'isola transfughi di altre parti del mondo purché bianchi. È arrivato a accogliere anche i comunisti spagnoli, pur essendo lui sostanzialmente fascista, pur di, come dire, bianchizzare l'isola, insomma. E quindi questa cosa ovviamente l'ha subita una grandissima parte della popolazione di quell'isola, poi, che essendo centroamericana non è bianchissima, insomma, ovviamente. No. E poi, va bene, la parte haitiana è più nera perché ha subito di più l'importazione di schiavi e schiave dall'Africa. Detto questo, la dittatura di Trujillo ha avuto un'opposizione interna, ovviamente, insomma, c'è stata una resistenza che ha cercato di buttare giù questo terribile dittatore, di cui hanno fatto parte, appunto, le sorelle Mirabal, che sono quelle di cui andiamo a parlare giusto, appunto, stasera. Le sorelle Mirabal erano quattro, di cui, appunto, è sopravvissuta soltanto Dedé alla dittatura. Queste quattro sorelle, appunto, Minerva, Patria, Maria Teresa e Dedé, e tutte e quattro, insomma, partecipano al movimento contro Trujillo. Diciamo, questo lo ricorda poi anche Dedé, la sentiremo dopo, la più determinata è Minerva, che già nel 1949 ha, come dire, uno scontro diretto con il dittatore, che si dice c'è una Trujillo, leggenda a riguardo, no? Sì, che si dice che Trujillo non gli abbia perdonato mai, sostanzialmente. Bisogna dire che questa famiglia, la famiglia Mirabal, è una famiglia altoborghese, e quindi Minerva Mirabal con le sorelle, il padre e la madre, si trova a una festa alla corte del dittatore, sostanzialmente, nel 49, e Minerva si trova obbligata a ballare con il dittatore perché gli viene passata dal ballerino con cui stava ballando, e a un certo punto Trujillo inizia a provocarla e a chiederle se le piacesse o meno la sua politica. Lei gli dice di no, e a quel punto lui dice: ma io potrei mandarti, che sembra fosse un po' una sorta di minaccia, insomma, dei miei fedeli a convincerti. E lei risponde: ma potrei convincerli io. Questo episodio, che viene raccontato così dalla sorella, in altri testi viene raccontato anche in maniera più marcata, diventa una sorta di leggenda di Minerva che da sola si erge contro il dittatore, sostanzialmente. Fatto sta che pare comunque che Trujillo, che era fortemente misogino, non se la sia dimenticata questa cosa. Già dopo questo fatto vengono incarcerati il padre e Minerva. Il padre viene incarcerato, tra l'altro, e torturato durante la prigionia di la prima prigionia. Ha un infarto e non viene mandato in ospedale immediatamente, ma solamente dopo 4 giorni. Dopo 3 settimane esce dal carcere, ed è stata la prima di una lunga serie di vessazioni da parte della dittatura di Trujillo nei confronti della famiglia Mirabal. E Minerva studia legge, è il sogno della sua vita, quello di difendere le persone indifese attraverso la legge. Riesce a iscriversi all'università, ma Trujillo fa di tutto anche per crearle problemi da questo punto di vista, tanto che per iscrivere non le accettano l'iscrizione al secondo anno, le comunica che è per ragioni superiori, che non gli può essere accettata questa iscrizione, e quindi lei è costretta a scrivere un trattato di elogio all'operato di Trujillo perché le venisse accettata l'iscrizione al secondo anno. Si laurea comunque nel 57, ma non gli verrà mai permesso di esercitare la professione, che insomma c'era bisogno, non so se è esattamente come in Italia, ma insomma di un passaggio ulteriore. Nel 59 inizia la resistenza organizzata, la resistenza organizzata a Trujillo, con il movimento 14 giugno, che ha tra fondatori e fondatrici le sorelle Mirabal e anche Manolo e l'altro, non mi ricordo come si chiama, e Leandro, che sono i mariti di due delle sorelle Mirabal. Questo movimento si chiama 14 giugno perché il 14 giugno di quell'anno erano sbarcati sull'isola dei fuoriusciti e delle fuoriuscite che erano scappati per la dittatura e che, aiutati dal governo castrista che nel frattempo aveva portato a termine la dittatura sull'isola di Rimpettaia, appunto il 14 giugno sbarcano per cercare di rovesciare la dittatura, vengono trucidati in massa sostanzialmente, sì. E il movimento che poi nasce in seguito prenderà appunto nome da questa giornata di tentata rivolta sostanzialmente. È il movimento di cui Minerva, Mirabal in particolare e le altre sorelle diventano tra le maggiori esponenti, insomma anche Manolo e Leandro, che teniamo presenti perché sono, come dire, sono un tassello importante per poi capire come viene organizzato l'omicidio politico delle tre sorelle, appunto, perché Minerva e Maria Teresa subiscono più volte incarcerazioni e scarcerazioni, vengono rinchiuse alla 40, che è appunto questo carcere terribile dove si sa che famoso per le torture, lo Squarenta. È famoso perché era appunto un carcere terribile per i prigionieri politici, i prigionieri e le prigioniere politiche. Siamo verso la fine del regime, gli Stati Uniti devono anche iniziare a allentare il loro appoggio almeno ufficiale, perché fra l'altro appunto c'è un caso di politica internazionale, perché Trujillo cerca di uccidere Betancourt, che è il presidente del Venezuela, suo oppositore politico, fallisce l'omicidio e questo crea problemi, sì, perché evidentemente insomma gli Stati Uniti almeno ufficialmente devono condannare quest'atto. Fra l'altro abbiamo visto prima che invece negli anni 50 Trujillo era assolutamente coccolato dagli stati di tutto il mondo, ha avuto onorificenze da parte del Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Santa Sede e ovviamente anche l'Italia, che durante la presidenza del Consiglio di Scelba lo fece gran cavaliere, così come era diventato emerito commendatore durante il Regno d'Italia, quindi anche prima, una continuità che non si sono voluti far mancare. E quello che succede è che dopo l'ennesima scarcerazione delle sorelle rimangono però in carcere a Puerto Plata Manolo e Leandro, appunto, i mariti loro sono state scarcerate, tornano quindi nella loro città di residenza che è Salcedo, una città del centro dell'isola, non mentre ovviamente Puerto Plata è un porto, quindi è sul mare, nella parte nord, e nonostante ci sia un divieto esplicito, insomma loro ovviamente fanno su e giù per andare a trovare attraversando le montagne, insomma comunque arrivando fino a nord per andare a trovare i mariti che sono prigionieri politici e che appunto subiscono una prigionia molto dura, e il 25 novembre del 1960 decidono appunto di andarla a trovare, e come fanno sempre fanno a turno una di loro a rimanere a casa casa, perché hanno in 4-9 figli e figlie, e quindi fanno a turno a rimanere con i bambini e le bambine. Quel giorno rimane Dedè e invece le altre tre partono in macchina, gli viene prestata una jeep da un loro amico, e sostanzialmente questa macchina subisce un'imboscata. Subisce un'imboscata e poi dopo viene, dopo averle sparato, viene lanciata a precipizio per simulare un incidente. Quindi tutte e tre le sorelle Mirabal vengono uccise in questo modo terribile. Ovviamente inizialmente la dittatura cerca di dire che si tratta semplicemente di un incidente, si dice anche che l'autista fosse stato ubriaco, si dice una serie di falsità ovviamente che vengono pubblicate dai giornali, però sostanzialmente la dittatura non riesce a tenere nascosta la verità su questo terribile omicidio politico, ed è, diciamo, uno dei tasselli che creano ombre ormai molto grosse sulla dittatura, e soprattutto che fanno prendere forza, rabbia a quella resistenza che infatti un anno dopo, nel 1961, riesce ad arrivare all'omicidio del dittatore. Insomma, Trujillo viene ucciso nel 1961 in un'imboscata organizzata fra l'altro da un gruppo di suoi ex ufficiali. E la storia politica di dittatura della Repubblica Dominicana non finisce in realtà in questo modo, perché con alterne vicende fino al 1996 rimane al potere Balaguer, che era il presidente della Repubblica quando era dittatore Trujillo. Sostanzialmente cade e viene rieletto con elezioni sempre più fraudolente più volte in questo trentennio, ma sostanzialmente la Repubblica Dominicana rimane conculcata sotto questo clima plumbeo di una dittatura che di fatto dura ancora 30 anni, non si fanno processi politici, non c'è verità, non c'è giustizia ovviamente in tutto questo periodo del governo di Balaguer, che è, come dire, meno truculento, meno evidente rispetto agli anni di Trujillo, ma si tratta comunque di un governo fortemente repressivo sul piano politico, repressione che continua a subire anche la famiglia Mirabal. E che continuerà a raccontare poi nell'intervista che le hai fatto. Noi ci ascoltiamo Oci Curiel, Ellas Nosotras, e poi dopo ci ascolteremo la voce di Dedè Mirabal. Scoop su Radio Onda Rossa. Sì, Oci Curiel, lo ricordiamo, è una femminista, è una compagna, insomma l'abbiamo avuta ospite anche qui negli studi, e quindi la mandiamo volentieri. Repubblica Dominicana, chi più di lei, impegnata tra l'altro nell'internazionalismo molto attivamente. Lei è dominicana? No? Eh sì, certo, soprattutto. Del pelo la sé ver como varón. Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, un mini primer dedicato al 25 novembre e in particolare alle donne che ricordiamo nella scelta di questa data, cioè alle sorelle Mirabal, a questo assassinio politico delle tre sorelle Mirabal avvenuto appunto il 25 novembre del 1960 a opera del dittatore Trujillo, dittatore della Repubblica Dominicana, dove queste donne appunto vivevano. Tra poco vi passeremo un audio di un'intervista a Dedé Mirabal, la sorella sopravvissuta a questo eccidio, la seconda delle Mirabal, che è appunto una donna nata nel 1929, che ha vissuto tutta la sua vita allevando tutti insieme i figli suoi e delle altre tre sorelle assassinate, che è riuscito a mantenerle, anche come dire a ripristinare una situazione economica che gli era stata devastata dalla dittatura, facendo l'assicuratrice, poi soltanto in una seconda parte della sua vita ha recuperato anche parte dei beni della sua famiglia, perché comunque si tratta di una famiglia diciamo assolutamente altoborghese. Dedé Mirabal appunto ha vissuto tutta la sua vita cercando di assicurare la memoria delle tre sorelle e non ha comunque mai abbandonato neanche le terre agricole della famiglia. Anche oggi gestisce con orgoglio una piantagione di cacao biologico, il primo certificato nel paese. Comunque il massimo obiettivo della sua vita è stato mantenere viva la memoria delle sorelle, e con questo obiettivo ha creato e dirige tuttora la Casa Museo Hermanas Mirabal, che è stata fondata nella casa dove viveva la famiglia Mirabal ai tempi dell'assassinio, nella provincia di Salcedo, che appunto è una città del centro della Repubblica Dominicana, in una provincia che da pochi anni ha assunto il nome di provincia Hermanas Mirabal, appunto in ricordo di queste tre donne, tanto che se andate a Salcedo, all'ingresso della città vi aspetta un enorme murales con i volti delle quattro sorelle Mirabal, quindi Minerva, Patria e Maria Teresa, le trucidate da Trujillo, ma anche poi appunto Dedé Mirabal, che adesso sentirete in questa intervista in cui ci racconta la sua storia, insomma. Sì. Y entonces, si por usted está bien, queremos hacer una entrevista para que en Italia se pueda conocer. Vorremmo intervistarla perché in Italia si possa sapere perché il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza delle donne, la storia e la sua idea in merito. Las Naciones Unidas fue que crearon ese nombre de que fuera el Día Internacional de la No Violencia, no fue aquí, sino las Naciones Unidas. Questo fu un'iniziativa delle Nazioni Unite che dette vita a questa giornata internazionale contro la violenza. Non nacque qui in Repubblica Dominicana, furono le Nazioni Unite. Fu un crimine terribile. Mia sorella Colomba aveva 35 anni, l'altra 33 e la più piccola 25 anni. Le uccisero tutte e tre. Minerva 33 e Maria Teresa 25. Lei aveva 10 anni, lei era molto giovane. E lasciò una niña. Io avevo 34 anni, Patte 35, Minerva 33 e Maria Teresa 25. Correvano 10 anni tra la maggiore e la minore. Lasciò una figlia, era già sposata. La figlia ora vive a Puerto Plata. Patria ne lasciò 3 e Minerva 2. Come passò che questo dia, come nasciò l'idea di essere il dia contro la violenza per il 25 di novembre? Come nacque l'idea di far divenire il 25 novembre il giorno dell'assassinio delle sue sorelle, giornata internazionale contro la violenza? Il peccato che commettieron fu luchare per la libertà del suo paese, perché noi teníamos una dittatura molto férrea, molto sangrienta, e ellas luchavano per eso, soprattutto mia hermana Minerva. era la madre. Non lo so, furono le Nazioni Unite, fu un crimine tanto terribile, tre donne indifese, che l'unico crimine che avevano commesso fu combattere contro la libertà del loro paese. Avevamo una dittatura tanto dura, tanto cruenta, ed esse lottavano per questo motivo. Soprattutto mia sorella Minerva era la più determinata nella lotta. Perché lei capisca com'è strano capire quando una persona muore per caso, perché era proibito che mia sorella Patria, che morì con Minerva, ed io l'accompagnassimo quando andavano a trovare i loro mariti che erano prigionieri politici della dittatura. Quel giorno Patria, a cui avevano distrutto la casa e viveva con mia madre, volle andare ad accompagnare le ragazze, e mia madre disse che le avrebbero potute uccidere. E dico io: com'è possibile? Chi te l'ha detto? Effettivamente mia sorella andò e fu uccisa anche lei. Se non fosse andata, che era una cosa proibita, e così morirono tutte e tre. E mia madre soffrì tanto, non potete avere idea del suo dolore. Un amico prestò loro la sua jeep e si offrì di accompagnarle. Pero no es pecado, como quien le ha dicho. Efectivamente, mi hermana fue a acompañarle y la mató. Si ella no va, que estaba prohibido, ni yo tampoco, pues era más joven que la otra. Pero como ella fue a acompañarla, murieron las tres. Y el chofer que fue a ganarse el sustento de su familia. Un amigo le dijo: yo le voy a prestar mi guía, hablen con el chofer para ver si él puede ir a acompañarla. Efectivamente, entonces ella le dio el dinero para lo que le pagó lo que fue. También murió. O sea que fue. E lei crede sia importante la memoria della lotta contro la violenza delle donne oggi? La memoria per la lucha contro la violenza contro la mujer oggi è importante la memoria. Lógico, perché oggi, antes, había una muerte de mujeres, por ejemplo. Sí, ahora esto es un escándalo. Aquí han matado, creo, si no estoy errada, son 82 mujeres en el año que han matado. Logico, prima c'era per esempio una morte di donne ed era uno scandalo qui in Repubblica Dominicana. Credo abbiano ucciso 82 donne quest'anno tra gennaio e luglio. Che siano i loro compagni, i loro sposi, è terribile. La mia opinione è che a questo contribuisce molto la droga. Quando un uomo si droga perde la testa, si considera più grande, pensa di essere l'essere supremo e non si rende conto che è nato dal ventre di una donna per uccidere una donna. Speriamo che la situazione divenga più accettabile, perché io penso che se gli dessero l'ergastolo, un altro che tenta di uccidere una donna pensa: Dio mio, passerò la vita in carcere. Però la giustizia è tenera a volte e non ha abbastanza prove per condannarli. Però quest'anno è stata dura per quante donne hanno ucciso, ne hanno ucciso tante. Mi vuoi passare la vita in una carcere? Però a veces la giustizia si pone un poco suave, talvez. O no tiene lo suficiente para condenarlo, ¿verdad? Uno no sabe, ¿verdad? Pero ha sido fuerte este año aquí, para matarnos, para matar mucho. Y en el fato de sus hermanas hay dos elementos, ¿no? Es una lucha política por la libertad. Lógico. Y está conectada con la violencia contra la mujer, ¿no? L'assassino. Nel fatto delle sue sorelle ci sono due fattori. C'è la lotta per la libertà connessa alla violenza contro le donne. Aquella fue una tragedia política. A ellas la mataron porque luchaban en contra del régimen. Ya eso era, no fue por, ¿entienden? Quella fu una tragedia politica. Furono uccise perché lottavano contro il re. Una delle mie tre sorelle che morirono era molto decisa e diceva: ma se Gandhi ha dato libertà all'India, che è il paese più povero e popolato, perché noi non possiamo liberarci di questo dittatore? Perché sempre diceva ella: però se il Gandhi libertò la India, che è il paese più povero e più popolato, porque nosotros no podemos libertar de este dictador. No era para matarlo, para que quitaran ese gobierno. Y te voy a contar una pequeña anécdota. Mi padre era un comerciante, mi padre no era político, y lo mataron también, por lo mismo, pero mataron a una fiesta. Racconto un aneddoto. Mio padre, che era commerciante, non era un politico. Anche a lui lo hanno ammazzato per la stessa ragione. Un giorno lo invitarono ad una festa. E qui, quando ti invitavano ad una festa, ci dovevi andare obbligatoriamente, perché se non ci andavi, dimostravi che eri contro il governo. Quindi andammo a questa festa, che era a San Cristobal, che lui il Trujillo, la chiamava la città benemerita perché era la città dove era nato lui, il dittatore. Quindi a un certo momento c'era un amico di Minerva che lei aveva conosciuto durante gli studi che la invitò a ballare. Lei non voleva, però alla fine gli disse di sì. E poi lui la passò a Trujillo perché ci ballasse lui. E quindi durante uno di questi tre pezzi, suonavano tre pezzi, si fermavano un pochino e poi suonavano ancora. Era un'orchestra molto famosa. E quindi gli chiede a lei se le interessava la politica e lei rispose: non mi interessa. E lui le disse: le manderò qualcuno dei miei perché lei venga conquistata. E lei rispose: e se io conquistassi loro? E quindi io dico sempre: quella che conquistò. Entonces él siempre dijo, la que conquistó, porque aquí hubo un gran movimiento, se llamó 14 de junio, en honor a un grupo que había venido. E poi ci fu un grande movimento che si chiamava il 14 di luglio, in onore ad un gruppo che era venuto il 14 di luglio ed erano stati uccisi tutti. E quindi il gruppo aveva questo nome. E lui diceva che la ideologa di questo movimento era Minerva, dato che lei gli aveva detto che li conquistava tutti. Questo successe nel 1949 e 11 anni dopo la uccise. Lui non la perdonò mai. Per andare all'università le creò problemi, fece uccidere mio padre. Lei si laureò nel 57 e non le dettero il permesso per esercitare la professione di avvocata. Lei morì con il desiderio di difendere i diritti dei cittadini di qui. Si laurea nel 57 e la uccidono nel 60. Mia madre, che le sopravvisse per 20 anni, si consumò dal dolore. Morì dal dolore. Io conservo tutti i ricordi. Ella se gradúa en el 1957 y la matan en el 60. Y o sea que fue una tragedia muy grande. Ahora, la gran mártir fue Milagro, que duró 20 años. Y se consumió del dolor. Siempre yo digo, madre, no sé su enfermedad, se quedó muerta en la mecedora del dolor tan grande. Porque para una madre, llevar esas tres hijas muertas sin haber hecho nada. Un único pecado de amar la libertad, ¿no? O sea que mi familia sufrió mucho. Yo estaba toda yo viva. Mi mamá murió a los 72 años. Dopo la morte delle sue sorelle, ha sempre lottato per la memoria? Però immaginate per una madre. Qui, dopo la morte del dittatore, che lo uccisero 6 mesi dopo mia sorella, venne un altro governo, quello di Balaguer, che era simile all'anteriore, forse non così forte. La gioventù, che non era molto conforme con ciò che era successo con la dittatura, continuò a lottare e anche lì uccisero. È stato un proseguimento dell'altro. Molti assassini, cercavano armi, venivano sempre qui pensando che avessi le armi nascoste. Dico le 40 che gli si rendono. Io scrivi in memoria. Se sí. Llama Vivas en su jardín. Ah, sí, sí. Sí. Se llamaban en su jardín. Sí, lo tenemos su libro. Bueno. Graciela lo llevó en Italia. Bueno. Yo aquí, nosotros siempre fuimos amantes del jardín. Mi madre también, todito. Y usted, después de la muerte de su hermana, siempre luchó por la memoria de esto. Porque aquí, después de la muerte del dictador, que lo mataron 6 meses después de mi hermana, vino otro gobierno que fue el doctor Balaguer, que fue un gobierno similar al anterior. Quizá no tan fuerte, pero no dejaba de serlo, porque la juventud que quedó un poco inconforme con lo que había pasado con la dictadura siguió luchando y ahí mataron mucha juventud también. O sea que fue una continuidad de lo otro. muchos allanamientos, hacían buscando armas, siempre venían aquí, que creían que yo tenía las armas guardadas. Yo no tengo armas, decía yo. Y una pregunta sobre de usted. ¿Cómo cambió este domanda su di lei? Come l'ha cambiato la tragedia delle sue sorelle, la sua maniera di essere donna? Di vivere come mujer, se sentì más fuerte, más débil. Bueno, yo no sé cómo te explicaría eso. Pero tú sabes que ya eran 6 niños. De cuyos 6 niños. Digo, había 2 adolescentes, yo me tuve que hacer cargo. O sea que yo tengo 9 hijos. Yo parí 3 y tengo 9. Non so, io ho 9 figli, avevano 6 figli, dei quali 2 adolescenti. Ne ho partoriti 3 e ne ho cresciuti 9. Con i più piccoli, nei primi anni, non gli dicemmo nulla della tragedia che avevano ammazzato le loro madri, ma che io ero la loro madre. Mamma Dedè. E anche adesso sono mamma Dedè. Fu a tappe. Dissi le cose a poco, che la loro madre non ero io, che avevano ucciso le loro madri. Per questo ti ho detto che il vero dramma fu mia madre, vivere 20 anni con questo grande dolore. Il tempo è passato, sono cresciuti, già hanno una propria famiglia, si vogliono bene, non mi danno problemi, sono in salute. Già tiene su famiglia cada uno, se quieren come hermano, non me dan problema. Tienen buena salud. Yo digo, ¿qué más quieren para mí? Soy devota. Yo soy católica. Soy devota del gran poder de Dios. Y yo le digo, gran poder, gracias por darme a mi salud. Pero saludo a mis hijos y que se mantengan unidos. Porque ellos se quieren como hermanos. Son 9 por todos. 3 míos y 6 de ellos. Y ahora... Pasaron también cosas importantes por la memoria de su hermana, el nombre de la provincia y, lógico, sí, sí. Y la casa museo. No, mira, hay un... Cuando se muere en brazos de una patria agradecida, empieza entonces con el morir la vida. E adesso sono avvenute cose importanti, il nome della memoria delle sue sorelle, il nome della provincia, la casa museo. Quando si muore tra le braccia di una patria grata, comincia così il morire della vita. Tutti i bambini la conoscono, è una citazione di un poeta cubana. All'estero sono conosciute da tutte, le mie sorelle sono conosciute ovunque, sono vive. Le persone mi chiedono e io racconto com'erano, che eravamo sorelle e che come tutte le sorelle si litigava. Credo che ci siano pochi casi di donne che passando la dittatura siano state valorizzate fino a questo punto, che anche le Nazioni Unite, credo che sia stata una gran capacità uscita da questa casa, dal suo lavoro e da quello del governo dominicano. Ho un museo che si chiama la Casa Museo delle Sorelle Mirabal, dove c'è il patrimonio di mia madre, i vestiti di Minerva e Patria, i disegni di Minerva, tutte le cose che piacevano a Patria, tutte queste cosette che abbiamo ereditato. È molto visitato. L'anno scorso ci sono state 79.000 persone, l'anno scorso ancora 81.000. È buono perché anche i bambini possono conoscere la storia. È normale che a scuola, qui nella quarta classe, una volta all'anno portano la famiglia, perché se ne parla tanto, portano le persone anziane e le persone non vogliono morire senza essere andate almeno una volta al museo. Io ci vado regolarmente. E l'anno ante passato 81 e ora vamo ai 6 mesi, non so quanta vaglia, me o me. Yo con los tiquecitos yo lo llevo a otro lado. A los 6 meses le dieron, sácame a ver cuánto ha mido en estos 6 meses. Porque a medida que van creciendo los niños, la gente va conociendo esta historia. En las escuelas normales de aquí, en el cuarto curso, la clase de historia le dan eso. Entonces ya los niños conocen, entonces quieren ir al museo, quieren ir, que lo lleve la familia. A veces veo yo personas ya muy viejecitas. Digo, dice, sí, quise venir antes de morir, porque se ha hablado tanto de eso. Y no me quiero morir sin conocer esto aquí. Me van allá al museo. Yo regularmente voy, vengo. E questa era la voce di Dedé Mirabal, la sorella che è sopravvissuta all'eccidio del regime dittatoriale di Trujillo nella Repubblica Dominicana, una delle sorelle, l'unica che è sopravvissuta. Le quattro sorelle che hanno combattuto insieme contro questa dittatura, e la giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne è ispirata a loro, alle sorelle Mirabal. Non sono aperta. Sì, no, volevo fare una precisazione, perché ovviamente abbiamo scelto di mandare l'audio integralmente, anche se forse, come avrete ascoltato, su alcune considerazioni, cioè forse una in particolare, quella sull'ergastolo, ovviamente non concordiamo, tuttavia abbiamo privilegiato, diciamo, il valore di testimonianza che ha questa intervista e quest'audio, e abbiamo scelto appunto di mandarlo integralmente, consapevoli di questa, almeno forse alcune altre differenze, ma insomma appunto è da vivere come testimonianza. Mandiamo ancora un brano musicale, sì, e poi ci scambiamo qualche parola su questa testimonianza e sul 25 novembre ancora. Y se escucha lejano, cuentan a su voz el silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Saco de red, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa. preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Bene, dopo Lila Downs con la ballata della dignità, una canzone che stava proprio ad hoc con il discorso che stiamo facendo sul 25 novembre e la giornata che è stata ispirata alle sorelle Mirabal, volevo indicarvi dei libri. Uno è Il tempo delle farfalle di Julia Alvarez, che è un romanzo che si ispira alla vicenda delle sorelle Mirabal e diciamo che sì, perché non abbiamo detto, scusa se ti interrompo, che il loro nome di battaglia nella resistenza clandestina domenicana era Mariposa Sfarfalle, sì. Appunto. Julia comunque Alvarez fece questo libro ascoltando ovviamente Dede Mirabal e romanzando la storia, però poi successivamente Dede Mirabal ha scritto un libro di memorie che si chiama Vivas en su jardín Memorias e se questo magari è un po' più complicato trovarlo, il tempo delle farfalle di Julia Alvarez è edito da Giunti e si trova ancora nelle librerie. In seguito è uscito anche il film hollywoodiano, proprio insomma prodotto da Hollywood, Selma Hayek, sempre tratto dal romanzo di Julia Alvarez, quindi insomma adesso è abbastanza semplice, sdoganato, è abbastanza semplice informarsi insomma sulla storia delle tre sorelle. Sì, e anche Dede ha scritto un libro, l'abbiamo detto, sì, già. Ah, ok, niente, benissimo. Allora passiamo, diciamo, a considerazioni forse più generali in chiusura di questo di questa trasmissione. Vabbè, ovviamente abbiamo ripescato questa vicenda da cui nasce la data della giornata mondiale, pensando che insomma sia importante e attuale parlarne anche oggi, dalla storia che forse conoscerete, che comunque abbiamo raccontato un pochino all'inizio della trasmissione. La Repubblica Dominicana era una delle colonie degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno appunto appoggiato, addestrato, finanziato tutti i corpi militari e le dittature dell'America Centrale, dell'America Latina e del Caribe. Sono stati questi territori dei luoghi appunto di sperimentazione. Sappiamo che lì il capitale finanziario ha sperimentato tutte le politiche di controllo delle popolazioni attraverso la costruzione di dispositivi che noi viviamo anche oggi, la costruzione dell'emergenza debito in quel caso, e comunque di una emergenza, la costruzione della crisi economica. Sappiamo, Naomi Klein insomma lo dice molto bene, che proprio in America Latina sono state sperimentate le terapie dello shock, che vengono usate per tenere le popolazioni in uno stato di paura costante e a quel punto sottrarre loro man mano i diritti. Pensiamo al colpo di stato in Cile, è uno degli esempi che fa anche Naomi Klein, e sappiamo che queste teorie economiche e sociali sono state prodotte, pensate e sperimentate dai Chicago Boys, cioè da una corrente economica, politica e quasi filosofica e ideologica sicuramente di Milton Friedman. Sì, l'ultimo dei suoi apostoli, ecco, è Zingales, che adesso in Italia ha grandissimo spazio come un innovatore, ma insomma è sempre la stessa cosa che ormai si perpetua da 30 anni. Ecco. Sì, è il modello unico di sviluppo capitalista, la scuola appunto economica cosiddetta millenarista, quella che domina in questo momento e quella a cui per esempio afferisce evidentemente anche il governo Monti. E quindi ci sembra importante anche oggi insomma parlare di quei movimenti rivoluzionari contro la dittatura, contro questo tipo di sviluppo capitalista e parlare in particolare delle sorelle Mirabal, perché rintracciamo in questo episodio, comunque in questa vicenda, una tappa, un momento importante della lotta contro queste politiche che ci caratterizza insomma anche adesso e caratterizza noi, e quindi crediamo che le sorelle Mirabal siano proprio anche un esempio di una lotta ben precisa contro una dittatura, contro un modello di sviluppo economico molto preciso. Poi mi piacerebbe leggere un contributo che a distanza ormai ci fornisce Daria, e proprio usare le sue parole, un altro dei motivi per cui pensiamo che è importante ricordare insomma questa vicenda, e mi sembra importante, appunto scrive Daria, che la giornata contro la violenza alle donne abbia questa radice, questa valenza, perché ci ricorda che la violenza contro le donne è agita per tenerci sottomesse. Le donne vengono uccise quando si ribellano, quando prendono la parola pubblicamente o clandestinamente, quando insomma si oppongono. Ci ricorda che le donne vengono uccise per mantenere questo sistema patriarcale capitalista. Ci ricorda che alla base della scelta del 25 novembre, una scelta operata comunque dalle donne, dalle compagne centro e latinoamericane, c'è la repressione violenta di alcune donne ribelli. E anche dietro l'8 marzo in effetti c'è questo, anche se poi le cronache ci hanno detto altro, ma ne parleremo l'8 marzo, facciamo tutti gli 8 marzi. E poi infine dice, ci ricorda anche che alcune, molte, moltissime donne sopravvivono alle violenze, come appunto è sopravvissuta Dedè, e appunto come sopravvissute vogliamo pensarle, non come vittime. Quindi insomma ha detto bene in questa frase, un approccio che insomma questa vicenda ci aiuta a mantenere verso la violenza contro le donne. Sì, no, perché certo le sorelle Mirabal non sono state, non si possono pensare come vittime, perché insomma sono state abbastanza attive, delle compagne attive che non solo si sono ribellate, ma che hanno persino il loro omicidio ha contribuito poi a buttare giù la dittatura di Trujillo. Sì. E poi ci dicono anche tanto sulla violenza proprio specifica dei militari, che è un argomento che insomma in quest'ultimo periodo, se non altro per fortuna, cominciamo anche a ragionare, ad articolare, cioè esistono appunto i militari, sappiamo e l'abbiamo detto insomma tante volte, lo hanno testimoniato tante donne, che nei luoghi di conflitto lo stupro è un'arma di guerra, il corpo della donna è considerato un territorio da occupare. Sappiamo anche che gli uomini che legalmente sono armati stuprano, uccidono le donne perché possono farlo, nel senso anche che godono di tutti i privilegi, se noi guardiamo le storie, ecco, anche più illustri, più o meno illustri, legate alle violenze militari, non credo che ci sia stata mai una missione effettivamente di questo, e quindi godono di tutti i privilegi dell'appartenere appunto alle istituzioni, all'esercito, alle forze dell'ordine, e quindi agiscono di fatto il monopolio della violenza da parte dello Stato, hanno le spalle coperte, sono impuniti, e vabbè, in questo periodo proprio stiamo seguendo la vicenda dell'Aquila, una fra le tante, ma insomma questa vicenda delle Mirabal ci ricorda anche questa, diciamo, specifica violenza che appartiene al quadro più grande della violenza degli uomini contro le donne, che ha però delle dinamiche e delle modalità particolari, terrificanti, e vabbè, che vogliamo fare? Basta, sì, 21:16, abbiamo detto abbastanza, va. Sì, anch'io penso di sì, insomma, l'approfondimento storico sul 25 novembre è arrivato fino ai giorni nostri, insomma, ci ha reso il senso delle lotte che portiamo avanti qui ed ora. Sì, e noi concludiamo qui il mini pimer sulla vicenda delle sorelle Mirabal, proseguono le trasmissioni del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e quindi buon ascolto. Buon ascolto.